vado già pa pur lì rattere luce rave chi gnu gingani piano nannu pa bianca con la scieni l'anno cuyo sanno dani nannu vado già pa pur lì rattere luce rave chi gnu gingani piano nannu pa bianca con la scieni l'anno cuyo sanno dani nannu nana di ugivi senta cali garu mirigu naras palu nana di ugivi senta cali garu mirigu naras palu paganda che la cuna ranno di un gigo c'è ganano gigo nestuve sai arenda riaggia si giasti un daninaia finirini manarucivu avanna macchiri sarà spallo Nirini manarucivu Avana makiria sarasparu Avana makiria sarasparu